difesa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Partenza, attenzione, Torres e Griezmann, tocco per lui, Griezmann tutto regolare, tutto solo Griezmann, rete credibile, contropiede micidiale, Griezmann non ha sbagliato, 1-1. Carvajal cerca e trova il movimento di Bale, ventesimo, ci pensa lui, Bale. Mariano prova a calciare, segna un gol da favola, Mariano Ferreira 3-1 Siviglia, a mezz'ora dalla fine, la terza finale è sempre più vicina. When you walk through a storm, hold your head up high. Firmino se ne va in uno contro uno, vuole andare verso l'esterno, ci riesce Firmino, di forza, di tecnica, mette al centro, manda il Liverpool prima in paradiso e poi soprattutto a Basilea. La mosca rossa si chiama Liverpool. Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao, meno male. Ma come, meno male? Io mi sento assediato, circondato, guarda, manca solo, adesso sto vedendo le Free Practice 2 a Le Mans, ovviamente inquadrato in questo momento Lorenzo che ha il miglior oggi tempo, non ci sbilanciamo, inquadrato Marquez, oggi non ci sbilanciamo ma poi ne parliamo, inizia il Giro d'Italia, manca solo che vincano Valverde e Olanda. E io mi sento totalmente assediato dagli spagnoli, tanto che il 18 maggio non vengo a lavorare ma vado in ritiro, te lo dico subito, vado in ritiro con la bandiera dei Reds. Non potrei sopportare un'Europa calcistica di nuovo tutta coi colori della Spagna. Ma perché poi a noi cosa cambia? No, però sarebbe da capire perché succede. Perché, diciamo la verità, se ci fosse qui il professor Belinazzo, sì, ci racconterebbe che per far funzionare un campionato in movimento bisogna fare come gli inglesi, dare i soldi, vabbè, a tutti, fare in modo che la torta sia più larga, così le fette per tutti sono più grosse da mangiare. Poi arrivano gli spagnoli che fanno esattamente il contrario, perché dall'anno prossimo cambieranno, però loro oggi fanno che ognuno fa per sé, cioè quella, sì, roba che un tempo ricordi, sì, sì, ognuno, no, fa per poi, sé, che aveva fatto un grande casino qua, sì, da noi. Il problema è che ognuno fa per sé, non vincono solo Barcellona, Real Madrid, vincono anche le altre. E allora perché? Lanciamo questa domanda perché ci sono mille interpretazioni. Perché? Anche di persone insomma che conoscono le cose, allora perché? No, facciamo nomi e cognomi, stavamo ascoltando insieme prima Fabio Caressa a Sky la settimana scorsa, aveva detto ma questi Atletico mi convincono poco perché mi sembra che corrano un po' troppo. No, perché gli spagnoli vincono sempre? Perché gli spagnoli vincono sempre a calcio? Perché non mi sembra siano Sconcerti ha scritto perché sono gli unici ancora praticano l'arte del dribbling. Perché sono gli unici che praticano l'arte del dribbling. Che va può bene essere una teoria, Secondo... cioè tatticamente sono pari a noi, a tutti gli altri, e sono quelli che ancora lavorano sulla tecnica. Perché? Chiediamola ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, non siate timidi. Messaggi 349 238 6666, vale anche per i WhatsApp. Sconcerti scrive perché praticano l'arte del dribbling. Segurola su Gazzetta dello Sport scrive perché gli allenatori hanno Zidane, il Ciolo in particolare, hanno studiato alla scuola italiana, quindi, e si vede questa loro italianità anche in un Real Madrid più equilibrato, che non si butta in attacco in maniera forsennata. D'altra parte è stato... Però se fosse così, allora perché il Chelsea di Mourinho in queste stagioni non ha vinto in Europa? Mourinho è perfetto per il calcio italiano e lo ha dimostrato. Perché? La ragione non la troviamo, ragazzi. Quindi se non ci date una mano noi... Intanto Allegri oggi verrà ufficializzato, ha inchiostrato con di nuovo con la Juventus fino al 2018 per cifra, per una cifra record per il campionato italiano, sui, sui 5 milioni di euro. E perché oggi? Perché? Vabbè, perché oggi non lo so. Perché oggi, a due giorni dalla conquista della finale da parte del Real Madrid, oppure, oppure non... Come, come si chiamano quei programmi televisivi, sì, che gialli, misteri? Perché? Oggi perché? Perché, Simone? Pronto? Provincia di Pesaro, perché? Perché bisogna guardare il tabulato che dà la UEFA. L'Atletico, sì, Madrid ha fatto 119 chilometri a Monaco. Sì. Una cifra incredibile. La Juventus è un'altra squadra che corre tantissimo da 5 anni. I tabulati che danno loro del computer dicono che queste squadre corrono tantissimo. A parte il Real Madrid che ancora corre poco, tutte le altre squadre che sono ai vertici fanno chilometri illimitati. Voi pensate, il Milan ne fa una media di 102 in Italia, incontra un Atletico Madrid. Il Milan non fa testo, no, il Milan non corre, va piano, Milan va piano, pianissimo. Ho fatto un esempio, sì, che sì, il Milan non deve comprare i giocatori, deve comprare i giocatori che corrono. Se non corri, sei tagliato fuori da tutti i tornei. Perché questi corrono da così tanto tempo? Ecco, perché, ve lo chiedo io, perché... Bravo, facciamo noi le domande, eh. Se mi permette, le domande le facciamo noi. Perché? Perché? È anche vero che, come sottolineavamo ieri, ad esempio, nel meraviglioso Atletico Madrid ci sono i giocatori che poi vanno via, da Falcao a Diego Costa a Miranda a, come si chiama, Mario Suarez, che è andato alla Fiorentina, e che non riescono a rendere da altre parti come rendevano l'Atletico Madrid. Però c'è anche chi, ad esempio Mandzukic, rende dalle altre parti come ha reso nell'Atletico Madrid. E allora perché pensare che rendono soltanto nell'Atletico Madrid? Perché? Perché? Ve la lasciamo lì, è 800 24 00 24. Allora, per ricapitolare, adesso ci fermiamo per il traffico, subito dopo rientriamo con, aprendo la pagina, aprendo una pagina importante sul Giro d'Italia che oggi è al via, una decina di minuti di sano ciclismo, sperando che non vincano, che non ci dicano che vincano l'anno. Dove il favorito non è uno spagnolo, beh, insomma, è il nostro Nibali. Insomma, c'è Landa che tutti dicono sia uno dei grandissimi favoriti nel Team Sky, che è il team più forte. C'è anche Valverde. Il vecchio Valverde che per la prima volta si cimenta nel Giro d'Italia, che certamente non viene per partecipare. Subito dopo il Giro d'Italia arriverà qui Pierluigi Pardo, e allora scatta scatterà il momento dell'audio forum. Ripercorreremo tutti i temi della settimana. Vi invitiamo a partecipare a tutto questo. 800 24 00 24, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Bella mezza estate. Guarda, a me piace mettere tutti su più o meno sullo stesso livello. Non cerco di scegliere soltanto un corridore, perché su 21 giorni c'è sempre magari la sorpresa, la differenza. C'è da dire che noi siamo qui, ci siamo preparati bene per questo evento. Ah, come sei calda mezza estate. Al giro per le strade, tutto il resto non conta più. Vincenzo, non l'ho visto mai troppo preoccupato, ecco. Mi sembra sempre, arriva il giro, si concentra forse leggermente di più, ma è sempre, sempre così sereno, con le sue abitudini e con le sua, con la sua spensieratezza. È tranquillo, dai. Quest'anno è diverso, no? L'anno scorso era l'anno scorso, e quest'anno sto qui per provare a vincere, e penso che non sarà problema di fare quello che voglio. Forse come scalatore mi trovo dentro dei migliori, no? Ma un grande giro lo vince un corridore completo, e vediamo, no? Se mi serve solo essere il migliore in salita. Bello italiano quello di Landa, che abbiamo sentito per ultimo, uno dei grandi favoriti. Prima erano Nibali e il vecchio Scarponi. Giovanni Capuano, chiediamo a Davide Cassani che cosa si aspetta, che cosa, quali risposte cerca in questo Giro d'Italia? Che cosa vai cercando, Davide Cassani, in questo giro? Beh, intanto vado cercando qualche giovane che si metta in vista e poi naturalmente gli occhi sono puntati su Vincenzo Nibali, un po' perché è il nostro uomo di riferimento per questo Giro d'Italia e anche perché in vista olimpica, sai, è un uomo che per me è molto importante. Certamente, e poi è l'uomo delle grandi invenzioni, ne abbiamo parlato tanto con Piero Augusto Stagi, corridore di grande creatività. Sì, piace Vincenzo perché è molto, tatticamente parlando, sveglio, nel senso che non è che sia lì a pensare quello che bisogna fare. Questo l'ha portato a degli errori anni fa, però adesso quegli errori sono serviti a lui per crescere, per diventare un corridore vincente. Ha vinto le tre grandi corse a tappe e l'anno scorso ha vinto il Giro di Lombardia, tra l'altro scattando in discesa, quindi è bella questa fantasia che tante volte ci mette in corsa. Sì, questo certamente, ma spesso si dice è un giro disegnato per lui, l'abbiamo sentita tante volte questa espressione. O non è così duro, non è così fantasioso? Allora, secondo me è un po' meno duro, parlo delle salite, rispetto agli ultimi Giri d'Italia e quindi devi essere un corridore completo perché la cronometro di oggi, perché la cronometro, soprattutto la cronometro del Chianti, sì, è molto difficile, molto insidiosa e per i non specialisti potrebbero lasciare su quelle strade diverse secondi. E poi naturalmente bisogna andare forte in salita, sì, bisogna essere corridori completi. Nibali è un corridore completo, Landa ha dimostrato di essere fortissimo in salita. Però se dobbiamo cercare un punto debole in lui è proprio l'altro. Sì, lui l'ha detto, io assolutamente non ho paura di Nibali in salita, quello che mi fa un po' paura è il ticchettio dell'orologio. Quindi. E questo potrebbe essere un vantaggio per Nibali perché oggi potrebbe guadagnare qualche secondo nei suoi confronti, potrebbe guadagnare secondi anche nella tappa del Chianti, nella cronometro del Chianti. Questo potrebbe essere un vantaggio perché se tu arrivi nell'ultima settimana con, non so, un minuto di vantaggio, è l'altro che deve attaccare e non tu. Senti. Ma la primavera fatta un po' così, perché Nibali non è andato benissimo nel Trentino. No. Ecco, come la dobbiamo interpretare? Allora, intanto era partito alla grande vincendo il Giro dell'Oman, vincendo la rinsalita. Poteva vincere la Treno Adriatico, ma sappiamo tutti quel che è successo, la tappa annullata per il brutto tempo e quello ha un po' condizionato la prima parte di stagione di Vincenzo. Si è concentrato sul Giro d'Italia, non dimentichiamoci che è da 3 anni che non viene al Giro d'Italia e quindi l'approccio, l'avvicinamento è stato particolare. Ha scelto l'altura, ha scelto di scendere all'ultimo giorno, all'ultimo minuto per partecipare al Giro del Trentino e lì ha pagato un po' l'adattamento. E quindi io non sono preoccupato perché sono convinto che Vincenzo andrà forte, anche perché devi essere al 100% dall'ottava tappa in poi, sì, non prima. Sì. È quello che ci ha detto anche nei giorni scorsi Pier Augusto Stagi, cui nome vedo comparire sul monitor. Pier Augusto, ciao. Ciao Carlo, ciao Davide, ciao a tutti. Ciao direttore. Oh, come ti sento bene, che meraviglia. Pur essendo in Olanda, Stagi, quello Cassani stava dicendo. Ma stiamo usando le nuove tecnologie, le nuove tecnologie di Radio 24. No, Cassani stava dicendo quanto ci dicevamo noi nei giorni scorsi. Arriva Nibali non in una condizione eccellente, però forse era già tutto previsto. Vincenzo ha l'esperienza per avvicinarsi nel modo migliore alle grandi corse, ai grandi appuntamenti, l'ha dimostrato in questi anni, perché noi parliamo di fallimento del Tour de France, ricordiamo che l'anno scorso è arrivato quarto, è vero, è partito molto male, in Olanda, ahimè, alla seconda tappa ci ha rimesso proprio la pelle e si è giocato il Tour de France. Però poi alla fine è riuscito a vincere una tappa, forse la tappa più bella del Tour de France, ed è arrivato lì a poco dal podio. È un corridore di altissimo livello, ha la testa soprattutto da vincente, riesce a tenere la pressione, a mantenere una serenità e una concentrazione. Uno che, come diceva Michele Scarponi nell'intervista che avete mandato in onda, sembra sempre apparentemente all'inizio di un qualcosa, quando invece in realtà è già dentro. Anche nel Tour che ha vinto lui sembrava sempre un po' così capitato per caso, per lui la corsa non era il Tour de France ma era, con tutto il rispetto, il Gran Premio di Larciano. ha la fortuna di non sentire la pressione. Certo, innegabilmente tutti si aspettano il grande risultato, si aspettano la riconferma, il secondo sigillo in questo Giro d'Italia, in primis lui, perché ci tiene tantissimo. E io sono convinto che al Giro del Trentino che ho seguito, lui fosse imbastito dal tanto lavoro che aveva fatto. Ad esempio nel 2013 molti hanno parlato, hanno detto dopo il Trentino ha vinto il Giro d'Italia, ma aveva vinto il Giro del Trentino. Piccolo particolare, nel 2013 lui aveva fatto lo stesso lavoro in altura al Teide, era tornato a casa, era stato a casa 8 giorni, poi era andato a correre il Giro del Trentino, l'aveva vinto e poi ha vinto il Giro d'Italia. Quest'anno invece è sceso dal Teide alla domenica, lunedì è partito e quindi non ha avuto quella settimana per riambientarsi, per tornare a livello del mare, come si suol dire. Quindi sono questioni fisiologiche. Credo che i suoi preparatori, a cominciare da Paolo Slongo, abbiano messo in conto quel momento di disagio, anche se logicamente i corridori, Vincenzo quando l'ho visto al Trentino era un pochino preoccupato perché i dubbi ti assalgono, certo. Non è mai piacevole. Però adesso, bello, passiamo queste tappe olandesi che, come ci raccontavamo ieri con la storia delle montagne di vento invisibili, sono molto rischiose, non sono delle passeggiate di salute, non sono delle tappe di transitorio di trasferimento. E poi voglio chiedere a Davide Cassani quali sono i nomi degli italiani che hai segnato sul taccuino. A quali nomi dobbiamo guardare? Intanto sarà interessante vedere le tante volate che ci saranno, perché i nostri dovranno confrontarsi con campioni del calibro di Kittel, Greipel e del giovane Caleb Ewan. C'è Modolo, Viviani, c'è Nistolo, Maresco... C'è veramente Belucchi, sono veramente tanti velocisti e sarà una bella sfida perché ci sono quasi tutti i migliori al mondo. Per quanto riguarda la classifica, a parte Vincenzo Nibali, c'è un esperto Portovivo che cercherà di migliorare il posto che ha già fatto in un Giro d'Italia, ma soprattutto Davide Formolo, che è giovane, che l'anno scorso è stato autore di una brillantissima affermazione in quelli di La Spezia, che è una bellissima tappa, e mi aspetto che possa cercare quest'anno di far classifica. Se arrivasse nei primi 10 sarebbe un ottimo risultato. Questi sono i giovani più interessanti. C'è anche Moreno Moser, che l'anno scorso ha fatto un'ottima prova al Mondiale a cronometro e mi auguro e penso che possa fare bene, come Enrico Battaglin. Abbiamo parlato poco di Battaglin. L'ho visto alla Liegi, mi è sembrato bello, timpante, preparato e posso dire che mi piacerebbe vedere vincere ancora una tappa, lui che di tappe ne ha già vinte 2 negli anni scorsi e adesso corre per una squadra olandese. Sono tanti gli italiani che possono mettere in evidenza, io me lo auguro, perché alla fine comunque certo. È naturale che guardo con un occhio di riguardo tutti gli italiani. Chiaro. Grazie Davide, buon lavoro, ci sentiamo in corso d'opera, ci sentiamo in corso di giro. Io ringrazio anche Piero Augusto Stagi, con cui ci sentiamo tutti i giorni. Ciao Piero. Ciao Carlo. Ciao. Giovanni, rimangono in aria quelle domande, perché anche nel ciclismo tra Contador sul calcio Valverde, cioè, mi ha scritto un amico nostro che non citerò, fonte anonima, mi ha scritto: ricordatevi che gli spagnoli sono competitivi sin da giovani, hanno le famose seconde squadre, ad esempio questa è una differenza tra la Spagna e il resto del mondo, hanno grandi impianti, hanno un grande sistema di impianti sportivi, sì, questo può andare benissimo, hanno anche una cultura sportiva più ampia rispetto alla nostra, perché non hanno soltanto il calcio, pur essendo il calcio per loro qualcosa di davvero importante. Però ad esempio, se davvero come pare ieri il nostro calcio ha deciso di dotarsi delle seconde squadre, magari nell'arco di qualche anno potremmo vedere qualche miglioramento, qualche giovane in più che arriva competitivo già a giocarsela. È una grande idea, magari non serve per il Real e il Barcellona, al di là che il Barcellona è evidentemente il prodotto della Masia, però serve magari per rendere più competitive le squadre che stanno un gradino sotto, magari c'è anche questo. Paolo, buongiorno. Buongiorno gente, buongiorno anche ai suoi ospiti. Dica. Io volevo esprimere umilmente la mia sul sistema Spagna, inteso come sport. Io la penso abbastanza come lei, mi stanno un po' in quel posto perché continuano a vincere e chi vince sempre poi diventa antipatico. Hanno un sistema da sempre, perlomeno da che mi ricordo io, che ho 54 anni e sono bel vecchietto, che abitua a giocare insieme, abitua a stare insieme, abitua a fare le cose insieme, non cambiano tantissimo. certo Barça, Real infilano dentro fior di campioni perché sono dotati di miliardi, ma l'Atletico no, li fa giocare sempre insieme, gli dà un sistema e non cambia molto. Noi abbiamo l'abitudine ogni 2x3 a cambiare, perché se uno non vince lo devi cambiare dopo tre giorni che gioca e fa due gol, è un fenomeno. Da loro non è così. Io ci vivo, ci lavoro con loro, non è così. Da loro sì, il Paolo, ragazzino viene seguito e gioca. Però questo può valere nel raffronto con l'Italia, però loro continuano ad essere più forti anche di tutti gli altri. Punto primo. Punto secondo, credo che questa mentalità esistesse anche negli anni 80, primi anni 90, quando erano gli eterni secondi, gli eterni piazzati, quelli che non vincevano mai in nessuno sport. Non sto parlando solo del calcio, sto parlando anche di basket, di ciclismo, di motociclismo, di un po' di tutti gli sport. Erano gli eterni secondi, gli eterni piazzati. Poi, evidentemente, si è accesa una luce che dura tuttora. Luciano, buongiorno. Buongiorno, senta signor Genta, questa domanda cade come il calcio sui maccheroni per me. Per il fatto vorrei che io, anche i maccheroni oltre al calcio, sì, davanti a casa mia sto passando quelle macchine, penso che sia la biglia e biglia, non so come. Sì. Niente, si sente un po' di rumore, perché io venerdì scorso sono venuti a casa mia due miei amici, uno della Murcia e l'altro di Lanzarote. Sono due ragazzi, uno 38, l'altro 22 anni, sono due allenatori di calcio, sì. E la federazione spagnola gli ha pagato tutto. Uno sarà a Verona fino al giorno 12, l'altro a Padova fino al giorno 18. Allora io mi sono chiesto, ma questi ragazzi che vengono incentivati e quindi spesati tutto, in più 3.000 euro a testa, ecco, mi sono dimenticato di dire, non è che per caso gli spagnoli investono sui giovani e ciò che gli passa anche l'Europa, perché mi hanno detto che c'erano di mezzo anche i finanziamenti europei, vengono dati e vengono usati per portare avanti i giovani, mentre i nostri forse spariscono nel nulla? Bah, e poi l'altra questo, cosa, che io ho sempre vissuto abbastanza in Spagna, sì. Gli spagnoli sono ancora tifosi, hanno ancora i ciclisti, i calciatori, del cuore, noi ormai quelle cose lì le abbiamo perse purtroppo. Ma non, su entrambe le cose non lo so, ci rifletterò, non so se è una questione di soldi dati agli istruttori, non saprei dire, non saprei approfondire questa questione. Si può notare che in questo momento non esiste una grande nuova generazione di giocatori spagnoli, no? Perché sono sempre quelli. Anche se l'Under 21 spagnola è un Under 21. Sì, la differenza è che l'Under 21 spagnola è fatta di giocatori che giocano già nella Liga ad alto livello. La nostra Under 21 storicamente, tranne forse l'ultima, quella negli anni 80, è sempre stata composta da meravigliosi ragazzi che però non avevano sbocco nella Serie A. No, esatto. È un'ossessione. MotoGP, seconde prove libere. Lorenzo Marquez Pedrosa. Sempre gli spagnoli. Perché? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Convocati. Aspettando Pardo che sta arrivando, io Giovanni Capuano qui presenti. Allora, saluto e ringrazio Federico Ferri, come al solito dei piani alti di Sky. Ciao Federico. Ciao, buongiorno. Ciao. No, rivolgo anche a te il domandone che ci tormenta dall'inizio. Perché? Adesso sto vedendo anche le prove del Moto Mondiale. Meno male che Dovizioso si è infilato tra Lorenzo, Marquez e Pedrosa. Perché sono così più forti di noi, non di noi, di tutti quanti in ogni sport? Ti sei fatto un'idea? Ma la domanda come voi me la sono fatta, considerando anche che c'è un elemento, secondo me, anche generazionale, di casualità o di effetto traino che certi campioni e certi movimenti si portano, portano dietro. Pensate alla generazione dei pallavolisti italiani, per dire, no? Sì, sì. Se ci fossero chiesti dall'esterno perché gli italiani sono così forti a pallavolo, era difficile trovare una spiegazione, perché non è che avevamo una scuola particolare o un investimento particolare dal punto di vista dell'istruzione della scuola sul mondo della pallavolo. Faccio un esempio per far capire che spesso è difficile anche dare delle motivazioni. Certamente dal 92 in poi, dalle Olimpiadi di Barcellona in poi, il movimento dello sport spagnolo è cambiato e anche la pratica sportiva è cambiata. Oggi è difficile trovare a Madrid o a Barcellona, vi sarà capitato di andare nella pausa pranzo, qualcuno che non fa qualche sport, sì, il padel sì. È diffusissimo, il jogging, il running, sì, sì. Cioè, io voglio dire, non è che con questo posso spiegare che hanno 3 squadre su 4 nelle coppe europee o il Nadal del tennis, però certamente c'è un elemento anche di pratica, di diffusione, di cultura sportiva che secondo me aiuta in questi casi. Aiuta ed è cresciuta. Ecco, è arrivato Pier Luigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Molto bene. Allora, siamo tutti pronti per l'audio forum, ripercorriamo i temi della settimana. Vai. A cominciare dalla disputa, ciolismo, catenaccismo, eccetera, eccetera. Ieri Mondonico. Ma l'Atletico è una grande squadra, l'Atletico fa il calcio vero, non me la dovete... No, no, ma dimmi, fa catenaccio? Ma che è catenaccio? Con questo tiki-taka, con questa situazione che con le quali ci siamo riempite tutti quanti la bocca. Il vero calcio è quello dell'Atletico, è quello che non ti fa respirare, è quello dove in ogni zona del campo dove c'è la palla ce n'è uno, due in più. Allora, Federico Mondonico con lo spadone a difendere il ciolo, il ciolismo e l'Atletico Madrid. Me l'aspettavo, posto che mi riesce difficile dire qualcosa di contrario a una persona che stimo infinitamente anche a livello umano come Mondonico. Allora, secondo me creare il partito è divertentissimo, no? È proprio divertente. Non sempre si centra l'argomento. Demonizzare, io non sono d'accordo nella demonizzazione del calcio di Simeone, questo no. Chi ha detto che la sconfitta di Guardiola contro Simeone e la sconfitta del calcio, secondo me, dice una cosa non giusta. Non per dire, è vero che il calcio di Simeone è un calcio molto fisico. Sinceramente, se guardi le statistiche dopo quella partita ti chiedi come ha fatto a vincere, però è successo. Però è anche il calcio che poi dà la possibilità a un ragazzo di 21 anni di fare un gol come quello che ha fatto Saúl all'andata. No, soprattutto Fede, secondo me è un calcio organizzato. Cioè, nel suo essere esteticamente meno bello di altre filosofie e di altri approcci, però è comunque un calcio organizzato. La grande differenza è fra squadre organizzate e squadre che non sono organizzate. E sicuramente Mondonico dice una cosa giustissima quando dice, e in questo cito alcuni dei commentatori di Sky, e non mi permetto io di dare dei giudizi su un argomento tecnico che non mi vede alla stessa altezza loro, però parlando con Mauro, Boban... che discutono con Caressa, che invece è un esponente dell'anticiorismo, no? per dire un po' le fazioni, che poi sempre in termini del tutto col sorriso, ecco, senza, certo. Loro dicevano che l'occupazione dello spazio non solo in fase difensiva ma soprattutto in fase difensiva, quando devi ripartire, della squadra di Simeone è una lezione di tattica calcistica. Assolutamente, cioè, è una scienza di calcio, e se tu li vedi muoversi, si muovono in un modo perfetto. Dovuta, Federico, secondo me anche alla disponibilità che quei giocatori hanno, perché pure questo va detto, probabilmente Zidane o lo stesso Luis Enrique, quando deve lavorare con dei giocatori mediamente di più alta caratura, di più alto ingaggio, di più alta fama, insomma, magari il livello di disponibilità è un pochino inferiore. Invece con Godin, con Juanfran, con Lucas, insomma, si riesce a lavorare in maniera maniacale sulla fase difensiva, e quindi la squadra ha un pochino meno talento davanti, ma ha questa organizzazione che l'ha portata a passare il turno. Fabio insomma è un fedain da questo punto di vista, è un entusiasta, quindi è chiaro che gli piace un calcio estetico, lo capisco, però ribadisco, io sono veramente un fanatico dell'antifanatismo. Esistono tanti modi diversi per giocare a pallone, e la differenza vera secondo me è soltanto fra chi gioca bene e chi gioca male, chi ha un'idea e chi non ce l'ha. Allora, altro macro tema, replicabile il fenomeno Leicester? Potremo nei prossimi anni vedere qualcosa di simile al Leicester di quest'anno, Ranieri? Dilidin, dilidon, wake up everybody, thank you. Dilidin, dilidon? Perché no? Perché no? Perché noi ci siamo fissati che il Leicester è il nostro Chievo, e invece poi scopri che il Leicester è la nostra Fiorentina, è la nostra Lazio, il nostro Torino, ma più la Fiorentina come taglio di società. E allora perché no? Cioè, perché tu devi escludere in via del tutto assoluta che possa accadere, anche perché l'abbiamo visto prima parlando dei porché spagnoli. 400 anni può succedere. Perché? Ma perché? Perché l'anno scorso tu potevi pensare che in un campionato che ha lo United, il Chelsea, il City, no, l'Arsenal potesse vincere il Leicester? No, ma devono sbagliare tutto. Però siamo d'accordo che era come tagliarle. Cioè, mentre l'Atletico Madrid che arriva in finale di Champions è un'impresa, ma è un'impresa che rientrava nell'ambito delle possibilità, e lo scudetto di due anni fa, non è più un'impresa. E lo scudetto di due anni fa dell'Atletico Madrid, che secondo me rimane più difficile perché sulle 38 partite i valori e la profondità di una rosa dovrebbe valere di più, quindi per me la grande impresa l'ha fatta due anni fa vincendo il campionato l'Atletico Madrid, e quella roba lì però era ancora secondo me nelle cose potenzialmente immaginabili. Il Leicester era dato 5.001, ieri scherzavamo sul fatto che era più probabile per i bookmakers il ritrovamento vivo di Elvis Presley, sì. E io ribadisco che se avessi dovuto puntare 10 sterline dovrei puntare più su Kim Kardashian, presidente degli Stati Uniti, cosa fra l'altro non da escludere. Questo però non toglie nulla, anzi aggiunge secondo me all'impresa di Ranieri, all'impresa dell'Leicester, che è qualcosa di unico, once in a lifetime, come direbbe Foroni. Lo dici anche tu, Ferri? Sì, credo che sia, anch'io penso che sia la cometa di Halley. Penso che però se c'è una lega dove questo può succedere, non negli Stati Uniti ma in Europa, perché negli Stati Uniti può succedere praticamente dovunque, questa è la Premier, che si sta dando delle regole per consentire che questo accada, o meglio per dare la possibilità, sia pure una su mille, che questo possa accadere. Credo che oltre o più che chiederci, tutti noi, per fare del bene allo sport che amiamo, cioè il calcio, se è ripetibile un altro Leicester, dovremmo chiederci se è ripetibile il modello Premier. Però Federico, la grande anomalia positiva del modello Premier è che incassano quattro volte più di tutti gli altri, e quindi possono fare, perché se dall'anno prossimo, come magari succede, o fra due anni in Italia si comincerà a dividere tutto in parti uguali, il risultato non sarà quello se la torta resta quella che abbiamo oggi. Sarà che la tanta, Juve è semplicemente molti che la Juve e altre grandi, ma soprattutto certo. La Juve, non l'unica, avranno meno risorse per competere ad alto livello, perché la differenza è quella. Il Leicester ha il fatturato del Napoli, quindi non è il Chievo, ripeto. Sì, però comunque ti puoi permettere. In Inghilterra. Sì, però ti puoi permettere stipendi, giocatori che magari da altre parti non si possono permettere, e che in una stagione eccezionale, sì, per mille motivi, alla fine ti possono anche costruire una storia così. Allora, ci fermiamo un attimo per il traffico. Federico, dacci altri due minuti che affrontiamo un ultimo tema. Tutti convocati. Convocati. Allora, un ultimo argomento per l'audio forum. Che diceva il professor Capuano giustamente durante la pausa. Io sono d'accordo con Federico, cioè secondo me la ripartizione, perché poi di questo stiamo parlando, la ripartizione dei diritti televisivi, degli introiti da parte della Lega dovrebbe essere maggiormente perequativa, cioè con minore distanza nella forbice fra le grandi e le piccole. Questa è la mia idea, perché mi piace l'idea che ci sia questo equilibrio. Però è anche vero che l'Inghilterra, che adotta questo modello, oggi ci propone la realtà dell'Ester. La Spagna, che è peggio ancora di noi, nel senso che in Spagna la differenza fra le grandi e le piccole è ancora superiore rispetto a quella che c'è in Italia, è forse il modello vincente che c'è in questo momento, e cioè, nonostante il Siviglia arriva stabilmente alla finale di Europa League tutti gli anni, quindi voglio dire, anche qui le certezze matematiche non ci sono. Secondo me ci sono situazioni di congiuntura degli ultimi anni che rendono il calcio spagnolo superiore. Sul modello sono d'accordo con Federico, sicuramente se si equilibrasse un po', secondo me sarebbe giusto. Allora, un ultimo argomento per l'audio forum, che è questo, è il solito, è quello di sempre. Totti, cresce il partito di quelli che lo vogliono agli europei per un'ultima passerella. Io sarei di quest'idea, basta con la Roma, basta con il calcio, chiudiamo con l'azzurro. Parabà. Tavecchio. Totti lo porterebbe all'europeo? Guarda, è una competenza di Conte, non del presidente federale, sennò sarebbe un'invasione tecnica. No, come sportivo. Come accompagnatore. Grazie. Ma c'è anche chi a Totti suggerisce un futuro. Comunque siamo veramente dei si può dire, findrocchi. Perché voglio dire, cioè, a Tavecchio fare una domanda del genere, che ci sta, ovviamente, è proprio per portarlo a dire una cosa che poi a quel punto diventa un problema. Ma c'è. No, c'è. Luigi Parma. È come andare. C'è chi propone a Totti invece un futuro diverso, un futuro alternativo a quello del calciatore. Vi assicuro, numero uno al mondo, trombatore per eccellenza, tomba. Quei due giocatori per eccellenza che io posso dire domani smetto se loro hanno voglia. Anzi, un appellone alla moglie di Totti. Prestamelo, mandamelo. Francesco è il number one. Francesco c'ha una carriera nuova davanti. È un erede? Ma è il vero erede. Lui e Cassano. Francesco Totti e Cassano sono i miei due eredi naturali e non devono fare nient'altro che presentarsi e dirmi: Rocco, siamo pronti. Tu c'hai lavoro per loro? Per sempre. Questo era Rocco Siffredi. Una carriera davanti. Hanno una carriera davanti. Boh, che cosa devo dire? Ricordatevi degli amici. Ecco, a parte questo, Totti, ragazzi, è un tema, è un classico tema giornalistico, un po' da bar in questo momento. È ovvio che con la pochezza che abbiamo davanti e con invece la qualità dei colpi di Totti, la suggestione ci sta. Però, francamente, insomma, io ho visto Cruciani che girava qui intorno, lui è favorevolissimo alla convocazione, a me sembra un po' una... Mi sembrerebbe, insomma, poi una roba. Conte di... vuole i Marines, Totti. Insomma, hai lavorato per fare due anni in un altro modo. Totti, fino a due mesi fa, era sui Marines da un'altra parte. Federico, una punizione all'88esimo. Forse sì, vorrei che tirasse sempre lui. Ecco. Okay. Stiamo esagerando, no? Ma non lo so se si esagera, però c'è una cosa da dire, che spesso abbiamo parlato dell'impiego, il famoso impiego all'Altafini, che è una cosa che faceva impazzire anche lo stesso Altafini, nel senso che anche lui non lo gradiva. Se oggi noi parlassimo con Totti, credo che Totti ci direbbe: se riesco a fare questo in 10 minuti, figuratevi cosa potrei fare in tutta la partita. Sarebbe facile poi opporgli questioni fisiche, ovviamente di tenuta, che a quell'età possono non essere più quelle di un tempo. Però c'è da dire un fatto: Spalletti sta realizzando quello che si dice di che possono fare tutti i giocatori dopo una certa età, cioè gli fa giocare l'ultimo 10 minuti e un quarto d'ora. La differenza rispetto a quello che spesso si dice, cioè uno entra e poi non fa niente, che questo qua è un cecchino, è infallibile. Sì. Cioè, in quei 10 minuti sta facendo un pezzo di storia di questo campionato. E quindi mi viene da pensare, io ero d'accordo con te, Carlo, quando dici smetti con le mani alzate, sei un fuoriclasse, un fenomeno e va bene così. Sinceramente io mi metto nei panni dell'atleta e dico: ma siamo sicuri che questa cosa non possa funzionare ancora? Ma guarda, anche perché le mani alzate in questo detto ce l'ha comunque, da trionfatore. Io fossi Totti diventerei pazzo a stare in panchina. Cioè, io sono Francesco Totti, con la presunzione che potrei avere, nella mia Roma e entrare a tre minuti dalla fine a me farebbe ogni domenica e con la prospettiva di farlo ancora per un anno a me manderebbe al manicomio, a me, poi non lo so, però i risultati sono buoni, io penso che questo sia al di là dei meriti di Totti, che sono chiaramente il 99% di questa vicenda, io però guarda, diciamo un 10% di merito lo do anche a Spalletti, perché poi comunque sappiamo che esiste sempre una dinamica, una dialettica tra allenatore e giocatore, e forse un po' quello che diceva Dotto l'altro giorno, che insomma in un giocatore giustamente consolidato, considerato come un idolo da tutti, amato, idolatrato, insomma alla fine qualcuno che in qualche momento ti irrita, quasi ti provoca, insomma, però poi riesce a tirar fuori tutto questo, va sottolineato. Ma certamente, però vai da Michael Jordan e chiedigli: ok, tu entri negli ultimi tre minuti, Michael Jordan ti fa nodo, ti avrebbe fatto il nodo. Vabbè, io fossi in Totti andrei a bussare alla porta di Rocco Siffredi. Poi fate Vobis, fate Vobis. Grazie Federico, alla prossima. Grazie a voi, ciao, abbraccio. Ciao. Michelangelo, buongiorno. Buongiorno, Genta, Pardo, Capuano, ciao. Ciao. Mi sentite? De Luca sì? Pure, anche De Luca, che ci diamo. Ciao De Luca, mitico De Luca. Pardo. Io volevo portare un attimo all'attenzione una cosa su cui un po' che rifletto, che era l'Euro 2012. Cioè, secondo voi è possibile che noi giochiamo la prima partita con la Spagna e insomma ce la giochiamo fisicamente e all'ultima partita, sette partite dopo, noi siamo sulle gambe, loro ci sverniciano? È possibile, sì. Ti rispondo perché ero presente in loco e insomma ricorderai che noi abbiamo giocato il giovedì e poi la finale era la domenica. E secondo me abbiamo fatto anche un errore strategico, nel senso che da Varsavia siamo tornati a Cracovia la notte, venerdì c'è stato l'allenamento a Cracovia, sabato mattina la partenza da Cracovia a Kiev, e mi ricordo che c'erano dei mugugni su questo, cioè non è stata proprio una gestione perfetta. Avevamo un giorno in meno di riposo rispetto a loro e con tre giorni soltanto, cioè se le due semifinali fossero state martedì e mercoledì con la finale domenica, comunque tu davi la possibilità anche a chi aveva giocato dopo di poter recuperare. Giovedì, domenica, onestamente, l'abbiamo pagata, l'abbiamo subita. Poi, anche Prandelli l'ha detto, c'è stato un errore di organizzazione lì, di gestione di quelle 72 ore. Sì, io penso di sì. Anche logistica. Poi è ovvio che, insomma, lo sappiamo, no? Con i sospetti possiamo giocare quanto ci pare. È ovvio che lo sport spagnolo negli ultimi 20 anni, dal 92 in poi, dalle Olimpiadi di Barcellona in poi, negli ultimi 24 anni ha fatto dei passi in avanti mostruosi e talmente clamorosi che qualcuno potrà anche pensare male, anche poi che Fuentes e tutto il resto, però come sempre insomma bisognerebbe avere le prove prima di adombrare i sospetti, soprattutto per chi ha una funzione pubblica come noi. Penso che però su quello specifico lì sinceramente ci fosse un problema di calendario e forse anche di scelte nostre. Dobbiamo fermarci per il GR e torniamo subito. Ti vedo in forma stasera, bravo. Grazie. Bravo Pardo, grazie. Vai. Tutti convocati. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Dunque, da dove ripartiamo? Da Capuano, Pardo qui con me in studio e dalle parole di Brocchi che ha parlato poco fa alla vigilia della gara del Milan. Tutti sono un po' condizionati dal clima che c'è intorno al Milan adesso, quello è fuori discussione. Chi è che può far finta di niente al 100% può non percepire, non capire le situazioni, però io penso che allo stesso tempo un giocatore, se ha la possibilità di andare in campo, come ho già detto altre volte, qual è la cosa migliore di poter giocare a calcio. Può essere più difficile per l'allenatore che sta in panchina, per voi che siete fuori a guardarlo, per loro che sono all'esterno a guardare e dice vorrei entrare io, no? Quante volte qualcuno dice entrerei io in campo. Loro invece hanno questa fortuna e questa fortuna la devono trasferire in positività. Vabbè, discorso un po' filosofico quello di Brocchi, che dice sono attacchi senza logica, qualcosa di buono c'è in quanto fatto fin qui nel Milan, e dice comunque l'obiettivo rimane quello dell'Europa League, al di là delle polemiche striscianti che sono state nei giorni scorsi sulle tournée già prenotate dal Milan negli stessi giorni in cui ci sarebbero i preliminari di Europa League, eccetera eccetera eccetera. Marco, buongiorno. Buongiorno, ho chiamato per il tema di prima, però essendo milanista posso sfogarmi anche come preferite. No, come preferisci tu? Fai quello che ti pare. No, io ho un tema veloce, perché il discorso l'ho fatto sulla Spagna e l'Inghilterra, no? In realtà in Italia manca la capacità di creare lo spettacolo nei giorni in cui non c'è lo show del calcio, no? Io ho girato tanto, ho visto tanti stadi, anche parlamento con del Benfica, cioè c'era stato di Eusebio fuori, sciarpe, gente in pellegrinaggio. E noi non abbiamo la Hall of Fame del calcio, esiste, va, boh, c'è un posto. Sì, vai, esiste, a Coverciano. Sì. Vai a Toronto, l'Hall of Fame dell'NHL, cioè, gli dai $20 e ti cadono le mascelle a ogni angolo che giri. Cioè, noi abbiamo perso un treno, che è quello dei diritti TV, che è salita solo la Juve, e il resto, boh. Cioè, guardate la classifica, ci sono squadre con un bacino di utenza di tifosi che fa ridere. Non c'è un manager dello sport, c'era forse la Juve, una bella società, si vede, l'Inter, che quest'anno ha bucato solo il centravanti con un uomo da 25 con la stagione, probabilmente si giocava lo scudetto, però quelle sono organizzate per fare business completo, le altre sono dei presidenti, il tempo mi sembra un po' passato, vai a Barcellona, al Nou Camp è un museo che sembra il primo. Sì, vai a Madrid, e il museo del Real Madrid è il museo più visto della città, dopo il Prado. E non è che Madrid sia scarsa brutta di occasioni culturali. Io non ho capito il discorso su diritti TV, però il fatto che in Italia manchi da anni e ci sia la necessità da anni di un commissioner, di qualcuno che si metta sopra tutti e decida per tutti, poi fa i risultati, non li fa, viene cacciato o resta, questo è un tema aperto, però l'hanno sempre spiegato in tanti, ci sono 20 presidenti che sono 20 padroni e vogliono fare con 20 teste diverse, e quindi questa cosa qui non si farà mai, credo, o almeno non si farà a breve termine, e quindi noi da questo punto di vista resteremo indietro. Poi non credo che solo Juventus e Inter siano società che ragionano per fare un business. La Roma, ad esempio, sembra che sia una società che stia provando a disegnarsi un futuro diverso ed avere una visione un po' più ampia. Noi abbiamo il grande, se facciamo un discorso economico, per Ignazio Docet, il grande punto debole del calcio italiano rispetto a quello inglese e a quello spagnolo non è tanto nei diritti televisivi, ma negli altri introiti, che praticamente non ci sono. Gli introiti da stadio ovviamente non ci sono, a differenza degli altri paesi. Poi l'ultimo contratto degli inglesi è una roba irraggiungibile, ma in assoluto la somma complessiva dei diritti televisivi in Italia non è bassa, eravamo secondi fino al nuovo contratto spagnolo, siamo secondo me, ci danno più soldi della qualità del prodotto, non me ne vogliono i calciatori italiani, però è un dato di fatto abbastanza oggettivo, quindi su questo non ci sono grandi dubbi. Anche il famoso jackpot che ti arriva in Champions League per le squadre italiane è molto alto, perché i soldi che sono stati spesi per la Champions League e l'Europa League sono molti, quindi insomma non voglio fare il sindacalista di Sky e Mediaset, però i soldi sono tanti del contratto televisivo. Quello che manca, o comunque che non è all'altezza, sono gli altri introiti, che certamente non sono all'altezza perché gli stadi di proprietà sono pochissimi. E poi c'è il discorso che faceva Federico Ferri sulla ripartizione dei diritti televisivi fra squadre, dove noi siamo più o meno a metà fra il modello inglese, che è un modello dove c'è poca differenza fra le grandi e le piccole, e il modello spagnolo, che invece questa differenza l'amplifica ulteriormente. E comunque ricordiamoci che la differenza tra chi ha lo stadio di proprietà, ad esempio la Juve, che fattura 50, e gli altri, è importante, ma è colmabile. Ad esempio il gap che si sta facendo sulle sponsorizzazioni sta diventando un gap quasi incolmabile. Ci sono club in Europa che prendono 100 milioni, da noi la Juventus prende 23 più qualcosa. Ma questo secondo me è dovuto alla... L'Inter ha dovuto firmare un rinnovo al ribasso. Quello che ho detto varie volte, la sfiga, tra virgolette, dell'Italia è che il calcio si è globalizzato in un momento in cui noi siamo deboli. se il calcio si fosse globalizzato a livello di economia negli anni 90, quando noi dominavamo, probabilmente quei grandi sponsor che oggi scelgono il Manchester United, il Chelsea, il Barcellona, il Real Madrid e il Manchester City avrebbero scelto l'Italia. Questo è indiscutibile. Adesso bisogna far girare la ruota, bisogna cambiare. La Juve, da questo punto di vista, ha dimostrato di essere all'avanguardia. Lo stadio è un passo sicuramente importante da questo punto di vista. Altre società sono un pochino più indietro. Però poi il talento, invece, sul talento sono meno preoccupato, perché io penso che le fasi e le stagioni siano cicliche. Per cui certamente oggi noi non siamo messi benissimo, ma magari fra 5 anni lo saremo. E comunque anche nei nostri giovani qualcosa di incoraggiante c'è, secondo me. Luciano, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie della convocazione prima di tutto. Grazie a lei. Volevo intervenire in merito a Totti. Io, se ben ricordo, il CT della Nazionale dell'epoca, Trapattoni, un certo Roberto Baggio a 34 anni non lo chiamò, ci fu una diatriba, se vi ricordate. Insomma, voglio dire, Totti ne ha 40, che ognuno faccia la sua strada, no? Aveva alternative differenti, Trapattoni. Cioè, non doveva portare in nazionale Sharawi, Pellè, Der, Zaza e affidarsi solo a quelli. Cioè, quella era una nazionale che aveva altre cose, però non hai torto, quella di Totti. No, è una suggestione, è poco di più. È anche il mio ragionamento. Insomma, è chiaro, la suggestione è divertente, però non credo che sia nella testa di Conte. Assolutamente. Francamente. Poi mai dire mai. Però è chiaro che sarebbe abbastanza destabilizzante per un gruppo che per 2 anni invece ha lavorato con altre dinamiche. Oppure no, oppure invece di fronte all'assoluta penuria e alla difficoltà, al panico, ci potrebbe essere una scelta di questo tipo, ma non credo. Evaristo Beccalossi, buongiorno. Portiamo Becca, se no. Beccalossi, eccoci. Agli europei. Becca, vuoi tu 5-6 minuti li puoi fare, no? Quanti? 5-6. Questo è stato generoso. Vabbè, 3-4, dai, 3-4. 32 secondi, vabbè. Autonomia. Però di qualità. Di qualità, però... con 32 secondi un paio di palle gol le fai, dai, su. Porco cane, sì, no. Stavo avanti un discorso bello interessante, però mi inserisco subito. Ma cos'è che ha dichiarato Conte un po' di giorni fa? Che vuole una squadra di Marini. Sì. Quindi credo calcistico di Conte, per il lavoro che ha fatto negli ultimi anni, sia quella la direzione. E certo, con tutto il rispetto, con la grande stima che abbiamo tutti noi per Totti, credo che non sarà difficile. Senti, Beck, voglio parlare oggi per prima della tua seconda squadra, la Sampdoria. Derby di Genova domenica, mai così depresso, un po' deprimente. Ma sì, però è un derby. Sai che i derby, al di là delle classifiche, dei punti, sono partite talmente particolari che non riesci a fare tutti quei ragionamenti lì. La stracittadina, dove sei, devi vincere, punto e basta. Beh, la Samp non è ancora salva. La Samp non è ancora salva, esatto. Sì, probabilmente lo sarà indipendentemente dal risultato del derby, perché è difficile che il Palermo vinca a Firenze, però insomma, a 2 giornate dalla fine, giocarti il derby con l'ultima fuori casa contro la Juve, insomma, non è proprio la situazione ideale. Non essere ancora salvo non è proprio la situazione che ti fa dormire troppo sereno. Tra l'altro il presidente Ferrero ha parlato di stagione non all'altezza e di squadra che di stagione non all'altezza della qualità della squadra che aveva messo in campo. E secondo me è abbastanza vero, perché comunque la Samp, che a 2 giorni dalla fine non è ancora salva, è abbastanza sorprendente per i valori tecnici che ha. Ma voi ci credete a Montella sulla via di Milano del Milan? E dico, rispondo io? Vai. Credo di sì, anche perché Vincenzo lo conosciamo un po' tutti. Se c'è un progetto, secondo me con la Samp può anche parlare con Ferrero e vedere. Però se capita una situazione come il Milan, come fai a dire di no? Cioè non puoi a livello professionale. Poi è chiaro che anche il Milan non è che sta attraversando un grande momento, però come fai a rifiutare un'opportunità così? Chiaro che anche il Milan, rispetto all'Inter, e ripeto, rispetto all'Inter, mi sembra un attimino più indietro come progetto anche calcistico. Sì, non si capisce ancora da che parte si andrà, ma prima ci sono altre Montella, questioni da risolvere. Montella, come physique du rôle, come idea di calcio, è molto da Milan. Molto da Milan, sì. È chiaro che adesso le sue quotazioni sono un po' in ribasso, insomma è inutile. Anche quelle del Milan, quindi possiamo prendere due titoli. Poi delle volte dicono, ma voi lo incensavate, lo vincenzavate, o nel caso di Ranieri voi lo criticavate. cosa fra l'altro nel mio caso neanche troppo vera, perché in realtà però ci sono state delle critiche in passato fatte a Ranieri, anche pesanti, alla Roma, all'Inter, alla Juve, sì, ma il calcio è anche questo, eh. Ma gli allenatori sono i primi che lo sanno, se le cose vanno bene è ovvio che si beccano gli applausi, se le cose vanno male si beccano le critiche. Oggi cioè, Montella mi sembra in una posizione un pochino più debole, senza pochino, decisamente più debole rispetto a sei mesi fa. Sì, il dubbio su Montella è, senza pensare che possa fare chissà che campagna acquisti, mi sembra che il Milan di oggi sia molto lontano da quello che può servire a Montella come sì, qualità dei giocatori, e non so se la prossima estate il Milan ha la forza di fare 4, 5, 6 innesti per cambiare completamente pelle, perché Montella non gioca con un attacco come quello che ha il Milan, ha bisogno di gente a metà campo che gioca il pallone, ha bisogno di palleggiatori, il Milan ne ha pochi, dei muscolari, e adesso senza pensare di prendere i migliori al mondo in Europa, ma comunque pensare di cambiare pelle a una squadra significa fare una campagna acquisti importante, che non so se il Milan quest'anno ha in programma di fare. Sì. E Montella con una squadra non sua l'abbiamo visto a Genova. Certo, certo. Dove certo, è stato francamente deludente. Certo. Assolutamente. Intanto annunciata l'ennesima rivoluzione all'Inter, potrebbero partire Jovetic, Ljajic, Brozovic, Murillo, Icardi, Felipe Melo, Handanovic, ne aggiungiamo qualcun altro, Beck. Cioè devo far giocare gli allievi l'anno prossimo. No, credo che al di là delle voci, che chiaramente devi anche vedere in che modo riuscire a muoverti sul mercato con le cifre, però credo invece che gli 8-9 giocatori per l'anno prossimo siano stati individuati, c'è da fare i 3-4 inserimenti, quindi bisogna essere bravi, però ti assicuro che non è tutto da rifare, anzi il blocco è già stato individuato. Quindi è più avanti l'Inter del Milan? Sì, assolutamente sì, nel senso che adesso voi parlavate di Montella, sono d'accordo nell'analisi, perché vi quello che fa giocare le proprie squadre, però forse in questo momento società, e se arriverà Montella credo che sia la volta buona che si siedano tutti insieme e vedere anche le caratteristiche dei giocatori per poter rilanciare il Milan, perché non è più tempo dove arrivi e ti dicono questa è la squadra, non funziona più secondo me così. L'ultima cosa ragazzi, corsa al secondo posto. Allora, nel weekend Torino-Napoli, Roma-Chievo, e poi c'è un'ultima giornata che porterà la Roma ad affrontare proprio il Milan. Chi la spunta, Evaristo? Napoli o Roma? Close, Napoli secondo me. Napoli? Anche per me. Sì, sì, sì. Ma dico anch'io Napoli, però attenzione, perché la trasferta di Torino è complicata. Il Torino ha vinto sì, 4 delle ultime 6 partite, e una quinta l'aveva praticamente vinta l'Olimpico contro la Roma, poi è entrato Totti e ha ribaltato tutto. Non lo so, sono curioso di sentire domani Sarri se parla, sono curioso di vedere ad esempio se si costruisce addosso l'alibi che il Napoli gioca dopo con la pressione sulle spalle, perché vorrebbe dire, no, al di là delle battute, vorrebbe dire che c'è lo stesso approccio. Già abbiamo detto che è stato un errore prima, mettere pressione sarebbe un errore credo anche oggi. Poi è vero che insomma sulla carta il Napoli ha destino nelle sue mani, quindi io credo che ragionevolmente la stagione del Napoli sia stata assolutamente, il voto a Sarri in campo 9. Diciamo che sarebbe voto una ingiustizia sportiva. Voto a Sarri fuori dal campo nella gestione dei media, dell'ambiente, qualcosa in meno. Però sarebbe un'ingiustizia sportiva, dal punto di vista sportivo, se il Napoli non chiudesse secondo questo campionato. Su questo possiamo essere tutti d'accordo. Ma no, ragazzi, perché ragazzi, chi fa più punti arriva secondo. Cioè, e guarda che la Roma... Sto parlando di massimi filosofici. No, è che il Napoli sia stata quest'anno per lungo tempo, per lunghi tratti, la squadra capace di... A un certo punto, secondo me, anche la favorita del campionato. Poi la Juve risorta, e questo è indiscutibile. Dico anche però che non dimentichiamoci che la Roma ha fatto 5 mesi con un allenatore, ci ha messo un po' a mandarlo via, al di là del fatto che Garcia aveva fatto bene in passato, adesso non è che improvvisamente aveva buttato via tutto, però forse quest'anno aveva iniziato male la stagione, forse non aveva più, non c'era neanche più la fiducia dei dirigenti nei suoi confronti, insomma anche la Roma si è suicidata, perché probabilmente cambiando un mese prima adesso sarebbe ma non l'ha fatto. Io sto parlando di filosofia e Beck non è d'accordo sulla filosofia. Quando siamo di fronte a una squadra che quante 26 partite ne ha vinte 25, io credo che con loro sono stati disumani. Poi sicuramente Roma e Napoli un po' di rammarico ce l'hanno, però quando una squadra ti fa 26 partite, 25 vittorie. Cosa vogliamo parlare? What are we talking about? Direbbe Ranieri. Di cosa stiamo parlando? Grazie, Beck. Alla prossima. Ciao, ciao. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per la convocazione. Volevo solo far notare che nella finale di Champions imminente ci sarà comunque un ennesimo sorpasso del calcio spagnolo su quello italiano, nel senso che Madrid sarà la città che avrà vinto nel complesso più Champions rispetto a Milano. Milano ne ha 10 adesso, 7 del Milan, 3 dell'Inter, e il Real ne ha 10 da solo, quindi comunque da Madrid ne avrà una in più di Milano, che comunque rimarrebbe, se vincesse il Real, l'unica città al mondo, un'altra piccola ferita, ad avere due città comunque. Credo ci abbiano superato con ieri sera anche nel numero delle finali di coppe europee, però devo andare a controllare il dato, così ci facciamo del male. No, tra l'altro, appunto, se dovesse vincere l'Atletico, Madrid diventerebbe la seconda città dopo Milano ad avere due squadre che hanno vinto la coppa. Due squadre diverse, cosa che poteva succedere anche a Manchester. Insomma, se avesse passato il turno il Manchester City, a quel punto sarebbe stato automatico. Datemi un martello. No, che cosa dai, ne vuoi fare? No, Francesco, buongiorno. Il sole buongiorno, tornerà. Grazie per la convocazione. Dica. Buongiorno, grazie per la convocazione. Prego. Chiamo da Treviso. Io volevo portare un po' la mia esperienza per ribadire il discorso della arretratezza dello sport italiano rispetto a quello di altri paesi. Ho giocato a rugby 10 anni in Serie A in Italia e me ne sono fatto uno in Spagna, in top 10 spagnolo. E devo dire che nonostante il rugby in Spagna sia uno sport non altissima considerazione, c'erano gli stadi pieni, la gente andava a vederlo, vedeva calcio, vedeva rugby, vedeva hockey su prato, le università intervenivano come sponsor all'interno dei club e quindi c'era anche una ricerca su noi atleti quando facevamo questo tipo di attività. Quindi è tutto un comparto coordinato, sport, università, cultura, sponsor, che permette di far crescere lo sport anche in questi paesi che chiaramente ci ha superato. Questo è un taglio molto interessante, vero Francesco? Vero, vero, perché ad esempio nelle partite italiane di rugby, come mi confermerai, gli stadi sono praticamente vuoti. In Spagna, dove non c'è una grande scuola rugbistica, non c'è una grande tradizione rugbistica, evidentemente ci sono altri tipi di sinergie per cui portano comunque anche verso sport che non siano quelli tradizionali. Poi giustamente qualcuno ci segnala che regolarmente l'Italia è davanti alla Spagna nel medagliere delle Olimpiadi. Sì, questo è vero, ma perché è stato, e anche con un divario imbarazzante da Sydney fino a Londra 2012. Però la Spagna è cresciuta, diciamo, negli sport mediatici. La Spagna è cresciuta molto in questi anni della pallacanestro, nel calcio, nel tennis, diciamo in quegli sport dove tutti gli sport sono belli, per carità, però è chiaro che il tiro con l'arco, con tutto il rispetto, il tiro al piattello non ha la stessa mediaticità che può avere il tennis, il calcio, nemmeno la scherma, dove tutto molto, sommato c'è una scuola che ci porta un sacco di medaglie. Dannati loro, sono cresciuti anche nel moto mondiale. Roberto Ungaro, ciao. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Come va Ungaro? Volevo dire all'amico di Treviso che domani battiamo il record di palleggi a Cairano San Marco nel primo pomeriggio, battiamo il Guinness dei primati, speriamo di batterlo, di numero di palleggiatori, veramente il record del Guinness dei cinesi, domani alle 14.30, appuntamento a Cairano San Marco. Come stai Ungaro? Ci siamo visti poco tempo fa, no? Bene, sì, molto bene, ci siamo visti su qualche cosa di strano. Come mai visto in sella? Insomma, era una moto strana, una situazione un po' elettrica, vero? Un po' elettrica, ma devo dire che ho goduto molto. Senti, invece qui chi gode alla... Chi potrà godere alle mani? Allora, vi dico, vi aggiorno. Signor Lorenzo? Lorenzo? Dai, picchia duro anche tu. Oggi gli spagnoli non li sopportiamo più. Dai, dacci delle martellate anche tu. Allora, ti dico che c'è stato uno spagnolo che per la prima volta della stagione ha fatto un acuto Pedrosa, sorpresona, sul finale ha fatto veramente un ottimo tempo ed è davanti a tutti. Secondo Lorenzo attaccato, 44 millesimi, e terzo Marquez, 2 decimi. Poi si è messo in mezzo Dovizioso, buono per la Ducati, e quinto il nostro Valentino a 4 decimi, quindi è meno di mezzo secondo, sono tutti lì. Le Yamaha sono nelle più a posto. Notizia, nessuno ha ancora provato in quelle libere la gomma nuova che Michelin ha portato, più dura, e quindi questo potrebbe riservare delle sorprese, stiamo a vedere. E invece l'altra notiziona è che non sarà così veramente Vignale, andare a sostituire Lorenzo. Pare che Yamaha farà il colpo di scena, si dice Pedroso, ma forse c'è anche un'altra sorpresa, arriverà a breve la notizia, non si sa ancora, sì. Ma questo è quello che girava. Sì. Mercato incandescente, più di quello del calcio. Dunque, sembrava essere Vignale scontato il successore di Lorenzo come compagno di squadra di Lazio, e invece no. Voci affidabili mi dicono che ci sarà una sorpresa, cioè Yamaha farà un colpo di scena, così dicono, e poi staremo a vedere. Comunque bella gara, splende il sole, staremo a vedere. Le Yamaha, ripeto, sono le più bilanciate, sono altre forti tutta la sessione, sono le moto da battere. Punto di domanda, la nuova gomma, perché sai che quest'anno la protagonista è lei, sì. E speriamo che non giochi brutte sorprese, perché noi vorremmo vedere uno spettacolo equilibrato. Ma il tuo favorito è Lorenzo, naturalmente. Lorenzo qui vuole, sì, secondo me sì. Però Valentino è messo bene, quindi cioè, può giocarsela, podio sicuro, e potrebbe anche fare un acuto. Da tanto tempo che non fa una doppietta, sarebbe un bel risultatone, ci prova, ci spera, stiamo a vedere, insomma, ecco. Grazie Roby, ne parliamo lunedì. Grazie, Roberto Ungaro, grande weekend su due ruote dunque, parte oggi il Giro d'Italia e domenica Le Mans, che è una corsa strategicamente molto importante dopo la vittoria di Valentino Rossi nell'ultimo Gran Premio. Anche di questo parliamo domenica. No? Anche di questo, ma non apriremo con questo. Domenica apriamo con il Milan, perché ci saranno cose da dire. Ah sì? Abbiamo fatto il pendolone. Che pendolone? Che pendolone hai fatto? Sul Milan. Fidatevi. Vabbè. Domenica ore 17:05 fino alle 19. Tutti convocati in weekend eccezionale. Aspetta un attimo, fammi capire. Ha fatto il pendolone. Cosa vuol dire pendolone sul Milan? Domenica alle 17. Ma no, a me lo devi dire, però io ci sono. No, ma avrà dopo delle notizie, no? Avrà delle indiscrezioni. E non aspettare dice domenica, le cose vanno. Vabbè, io non so se vengo. Se non me lo dite, no, io mi collego. Sto a Roma, mi collego. Vabbè, domenica. Baci. Pendolone sul Milan. Ma guardate dove siamo arrivati. Grazie a Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo. Ovviamente Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e Federico Binde in redazione. Ciao ragazzi. Guaglio! Buon pomeriggio a tutti!